Login. Chiavi d'accesso al 2018. Di Simone Spezia. Ed eccoci di nuovo, bentornati e bentornate cari ascoltatrici, bentornati cari ascoltatori a Login, questa trasmissione che va in onda, ve lo diciamo quotidianamente, insomma, perché poi magari uno rischia di perdersi, perché l'orario è lo stesso della programmazione tradizionale di Effetto Giorno, la voce è la stessa e magari si può pensare, no, è una trasmissione specifica dedicata a quello che può avvenire, che riteniamo possa avvenire nel 2018, quali saranno le parole chiave, quali saranno gli elementi importanti dell'anno che si sta aprendo. Oggi ci occupiamo di elezioni. È un'annata elettorale importante per molti aspetti. Ci sono ovviamente le nostre elezioni, le elezioni italiane, e naturalmente gli occhi dell'Europa sono puntati su questo. Ci saranno le elezioni di midterm negli Stati Uniti, arriveranno molto più avanti, arriveranno in novembre, però saranno una prova decisiva per Donald Trump. Ci sono delle elezioni in Centro e Sud America altrettanto importanti, collegate, sicuramente collegata a quella messicana, le elezioni che ci saranno in Messico e potrebbero vedere la vittoria di un personaggio che potrebbe creare qualche problema proprio nei rapporti con l'amministrazione americana, con l'amministrazione statunitense. E poi ci saranno le elezioni in Brasile, infine la Russia. Beh, in Russia lo sappiamo perfettamente come andrà a finire, che vincerà Putin, e però anche queste sono un elemento importante, posto che non si debba rivotare anche in Germania, ma vedremo come andranno i colloqui tra Schulz e Angela Merkel. Ci ritroviamo tra un attimo dopo il traffico e iniziamo. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta Login, chiavi d'accesso al 2018. Ed ecco dunque, iniziamo però questo viaggio nelle elezioni che ci saranno nel 2018, in realtà dall'elezione che è più lontana, che sono le elezioni midterm americane. Sono delle elezioni alle quali tradizionalmente l'amministrazione in carica prende delle batoste, ed è pensabile, ipotizzabile che anche in questo caso avvenga, anche perché la popolarità di Donald Trump è piuttosto bassa, quantomeno in questo periodo. Certo, è un processo elettorale lungo, perché si inizia con le primarie, ce lo racconta bene il corrispondente a New York del Sole 24 Ore, Marco Valsania. Il 6 novembre 2018 può sembrare ancora lontano, ma per la politica americana è già tempo di grandi preparativi di battaglia per le elezioni di midterm. La stagione delle primarie per scegliere i candidati inizierà in maggio e quel martedì 6 novembre dell'anno prossimo sarà in gioco il controllo del Congresso e quindi l'agenda del presidente più controverso della storia recente, Donald Trump. La maggioranza repubblicana al Senato è appesa a un filo, o meglio a due seggi. Quella alla Camera è più solida, 24 poltrone, ma entrambi i rami sono considerati a rischio in un clima di forte polarizzazione tra i partiti e nel paese. Trump è il presidente più impopolare di sempre a questo punto del suo mandato, ma mantiene la fedeltà di una base motivata dai suoi toni populisti e che tuttora supera il 30%. L'affluenza alle urne sarà così cruciale nel determinare il destino del futuro Parlamento, vale a dire della rielezione di tutti i 435 deputati e di 33 senatori su 100, oltre che di 36 governatori statali su 50. E nonostante i guai di Trump, la strada per l'opposizione democratica è oggi in salita anche al Senato, la preda che pure sembra più a portata di mano. Solo 8 dei seggi che saranno in palio sono oggi controllati da repubblicani. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Oh, pensate che nelle midterm americane si è calcolato che mediamente le amministrazioni in carica perdano mediamente 25 seggi nella Camera dei Rappresentanti e 4 al Senato. Abbiamo in studio con noi Paolo Magri, direttore e vicepresidente dell'ISPI. Magri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e benvenuto a tutti. Allora, iniziamo proprio da qua, iniziamo dalle midterm americane, giusto per avere un'idea di come ve le raffigurate voi. Ah, con un po' di cautela dopo tutti i granchi che tutti hanno preso su Trump, perché è vero, tutti i presidenti in carica perdono al midterm. Lei ha citato i 25 seggi in media, Obama ne perse addirittura 60 nel 2010 e sulla base di questa tradizione, pensando a un presidente che è impopolare, che ha prodotto ben poco nel suo primo anno, tutto farebbe pensare alla conferma della tradizione. Però stiamo attenti, la riforma delle tasse è un grande successo che lui porterà ai suoi elettori, come porterà ai suoi elettori anche delle cose che a noi appaiono controverse ma che al suo elettorato piacciono tanto. E siccome i distretti negli Stati Uniti sono disegnati con un sistema un po' a tavolino da chi ha vinto le elezioni, c'è il rischio che anche la impopolarità nell'elettorato permetta di vincere seggi. Questa riforma delle tasse di Donald Trump è veramente il game changer e potrebbe essere forse la vera cifra di questa presidenza. Giriamo la questione: se non ci fosse stata Trump, si avviava un declino inesorabile. Con questa riforma il gioco è molto molto aperto. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti, ovviamente vedremo come andrà, come abbiamo sentito da Marco Valsani, poi ci sarà un lungo processo che inizia con le primarie e poi proseguirà. Io resterei in zona perché, come già si diceva, è collegata alla stessa, a come si è mosso Trump sul Messico, potrebbe essere il risultato delle elezioni messicane che, lo ricordiamo, si svolgeranno il 1° di luglio. Su questo fronte che cosa possiamo raccontare? Che Trump ha contribuito a indebolire fortemente il presidente Peña Nieto, che è considerato da tutti, è stato considerato troppo debole nei confronti di questo vicino ingombrante, arrogante, così lo vedono i messicani e non solo. Lo invitò addirittura poco prima delle elezioni a visitare il paese e si fece schiaffeggiare davanti a tutti da un Trump agguerritissimo, che fece il gentile ma ritornato in Texas disse cose tremende sui messicani. E questo fa sì che il successore designato da Peña Nieto, che è l'attuale ex ministro delle finanze, il più probabile, avrà una vita dura con Obrador. E Obrador è l'ex sindaco di Città del Messico, il terzo, per la terza volta candidato, è quel signore che costruisce la sua campagna contro gli americani, contro Trump, ma però come Trump è contrario a NAFTA, cioè all'accordo commerciale. Posizioni molto di sinistra, no? Quelle di Obrador, tendenzialmente. Nel modo, forse non nel modo nel quale tradizionalmente lo intendiamo, però. Sì, comunque fa parte di quella sinistra latinoamericana che sta scomparendo, vedi anche le elezioni cilene dei giorni scorsi, sta scomparendo in buona parte dell'America Latina, ma che Trump potrebbe aiutare a vincere in Messico. Restiamo anche qua nel continente americano, non spostiamoci di oceano, per così dire, e rimaniamo da queste parti per andare più a sud e andare in Brasile. Un'altra elezione importante, un paese in preda a tutta una serie di convulsioni che hanno a che fare anche con la rappresentazione che se n'è data degli anni come una delle economie, no, più in maggiore ascesa del pianeta, faceva parte dei cosiddetti BRICS e poi di una recessione pesante, infine una serie di scandali per corruzione. Che elezioni ci si presentano per quelle che arriveranno il 7 e 28 ottobre, torniamo appunto più avanti all'autunno. C'è stata in Brasile la tempesta perfetta, il mescolarsi di una crisi con una recessione, la peggiore negli ultimi decenni, più gli scandali, la corruzione, l'impeachment, e una situazione ancora complicata perché il presidente che è attualmente in carica, che pure ha qualche accusa, è anche malato e quindi c'è anche il rischio che ci sia una necessità di sostituirlo se le situazioni della sua salute fossero ancora peggiorando. Qui il problema di fondo è che c'è un candidato che è Lula che potrebbe tutto sommato vincere ancora nonostante l'impopolarità del suo partito in questo momento, ma che non si potrà molto probabilmente candidare perché a gennaio ci sarà la seconda sentenza del Tribunale Congiunto, ha avuto già una prima sentenza di condanna, c'è una seconda sentenza, e se anche facesse ricorso è molto rischioso per il partito dei lavoratori andare con un presidente che potrebbe poi essere incarcerato dopo le elezioni. Quindi tutti i giochi sono aperti. Ci sono dibattiti all'interno del Partito dei Lavoratori, ci sono due nomi che stanno emergendo, l'ex governatore di Bahia e l'ex sindaco di San Paolo. Sul fronte del centrodestra è svanita la prospettiva del sindaco di San Paolo, Doria, che era a Milano alcune settimane fa, sembra che il vecchio governatore di San Paolo sia il candidato di forza. E in più c'è l'eventuale ritorno di Marina Silvia, la sintesi, tutto molto molto molto aperto. Si parla anche molto di questo strano personaggio, questo Jair Bolsonaro, che è un vero populista di destra e anche uno che ha preso le difese della giunta militare. Che possibilità? Omofobo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in questo momento la possibilità ce l'hanno tutti, ma c'è il sistema elettorale brasiliano prevede poi tempi televisivi specifici in base alla forza dei partiti di provenienza, e quindi quando entrano in scena il PT, il PMDS, il PSDB, cioè i grandi partiti, questi personaggi, salvo sorprese incredibili, tendono a sparire. Tendono a sgonfiarsi. Veniamo da questa parte dell'oceano, ci spostiamo alla Russia e per avere un punto su queste elezioni, che insomma sono piuttosto scontate, sentiamo il servizio di Gigi Donelli. Partita ufficialmente la campagna elettorale, il presidente russo Vladimir Putin punta a chiudere il ventennio con una nuova elezione. Aspettando marzo, il presidente può correre tranquillo sull'onda dei successi raccolti nell'anno che si conclude e nella fragorosa assenza di un'opposizione ancora in attesa di reali protagonisti della generazione Navalny. La guerra in Siria, la ricostruzione di un'identità di potenza che ha rimesso Mosca al tavolo dei grandi, ma anche l'economia che ha digerito in parte le sanzioni fornendo sostegno a un buon numero di progetti di sostituzione sono tra i punti di forza, come la ricostruzione dei rapporti con i grandi paesi islamici come Turchia ed Egitto. Restano invece irrisolti i rapporti tesi con Bruxelles e le sanzioni rinnovate senza discussione che evocano l'annessione della Crimea e ancora di più il ruolo di Mosca in Ucraina orientale. Elezioni ai mondiali di calcio da portare a termine con successo sono dunque i primi compiti del 2018 presidenziale, ma la ricostruzione di un dialogo con vecchi e nuovi partner potrebbe rivelarsi la sfida più difficile del presidente al suo quarto mandato. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Un breve commento anche su questo, su queste elezioni russe, con Paolo Magri, questo Putin che lascia Russia unita per così dire dipingersi come padre della patria, no? Per uscire anche dall'agone politico definitivamente, come se non lo avesse già fatto. Ma qui non c'è la notizia. Putin dopo Putin dopo Putin dopo Putin. Qui la vera notizia, il vero punto di osservazione è la capacità di questo personaggio, certo che non ha oppositori e questo non è un dettaglio, di riuscire a mantenere una popolarità alta nonostante la crisi economica, dicevamo è forte perché dai soldi ai ceti medi eccetera, non è stato così in questi anni, ma è riuscito a tenere la popolarità alta grazie a una politica estera muscolare che ha fatto contenti i suoi elettori. La vera domanda qui, seconda vera domanda, è quando inizieranno le lotte per la successione, perché Putin più Putin più Putin più Putin non può andare avanti per l'eternità, e quindi cominceranno ad esserci movimenti interni nei prossimi anni e saranno quelli ad osservare, non certo il voto sulla rielezione. Infine una lettura, per così dire, dall'estero, anche se lei è in Italia e l'ISPI opera in Italia, una lettura dall'estero del nostro voto. Incerto, con rischi di ingovernabilità, ma ci sentiamo molto meno soli che in passato. Diciamo che siamo, non è una bella notizia né per noi né per gli altri, siamo in ottima compagnia. Dopo Brexit, dopo il voto in Germania e via dicendo, l'incertezza italiana non impressiona più di tanto. Abbiamo inventato un po' il populismo, abbiamo inventato i governi di coalizione, coalizioni allargate, gli altri ci stanno copiando, noi abbiamo un pochino più di esperienza e speriamo di metterla a frutto per gestire anche l'imprevedibile. E grazie a Paolo Magri, direttore e vicepresidente dell'ISPI, per essere stato con noi e averci accompagnato in questa puntata dedicata alle elezioni, che potete ovviamente riascoltare tramite il sito radio24.it oppure in podcast. Grazie a Michele Previato in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione, a tutti voi per l'ascolto. Una buona giornata da Simone Spezia.